che oggi vi voglio presentare qualcosa di veramente fantastico. Il nuovo inventatimbro di Pucci. Guardate! Non solo potete mandare messaggi speciali, ma con un po' di fantasia e con tante letterine che si attaccano, potete aggiungere altre parole. Allora, capito? Claudia, ti va bene il risotto per oggi? Sono i nuovissimi inventatimbro di Pucci. Ci siamo incartati subito nell'apertura. Devo fare io lo stacchettino? No, si fa tra un po'. Cosa ci vuoi raccontare, Nina? Dunga dunga dunga dunga dunga rurai. Stasera quartetto Cetra. Eh sì. 3-3-3-3-3. 3-3-3-3-3. 3-3-3-3-3. E stasera, intanto, cosa volete da cena? Vi va bene il risotto? In questa stagione gli asparagi sono ottimi. Pucci, io due domandine me le farei, Pucci, su quello Pucci. Spot fossi in voi. I timbri di Pucci. Sì, sì. Why? Cari miei, quello è. Qui abbiamo un sottofondo che tra un pochino ve lo presentiamo, Dunga, dunga, dunga, dunga, o vuoi presentarti ora? Facciamo. Fa di no col ditino. Ma di che si parla? Allora, io volevo fare una piccola premessa, perché probabilmente c'è questa persona che ci sta ascoltando, che si chiama Filip Skrzypniński, è il mio collega polacco, che parla benissimo italiano. Oggi su Skype mi fa: ma devo andare in macchina perché ho lasciato il cellulare là. E tu, ok, sì, l'ho lasciato in quella cosa che si attacca al vetro, come si chiama? E io, il portacellulare. E lui mi ha chiesto dopo un po', perché noi italiani siamo sempre così pigri da inventarci, per esempio, il nome di un porta oggetti qualsiasi attraverso la combinazione porta, cioè il sostantivo che poi diventa la radice di questa parola che deriva dal verbo portare, con l'oggetto incriminato. E quindi mi ha detto: povero ingenuo, inventate le parole porta cellulare, porta occhiali, porta cenere, porta tutto. E quindi, insomma, stasera possiamo parlare di neologismi, quindi di tutte quelle parole, quelle combinazioni di parole che entrano nella nostra lingua in maniera più o meno determinata e regolata da norme. Era la Vodafone, no, che ci dà verità. Peggio. Una persona che dovrebbe sapere che sono qui impegnatissima e non lo sa. Salutiamola, salutiamo questa persona. Bene. Quindi, cara, che dire? Allora, il tema della serata lo annuncio io solo con lo stacchetto musicale. Io mi impiccherò prima. per giù, due mele e poco più. Noi pupi siamo così, noi siamo pupi blu, pupiamo su per giù, due mele e poco più. Vivono via da qui, nell'incantata città. Perché abbassi? Voglio i puffi. Tutta la sera in sottofondo, vi avviso. Lo potremmo tenere tra il nostro ospite che fa il sottofondo musicale tutto basso. Ma perché i puffi? Che puffavano i puffi? Puffavano che i puffi, ci puffano puffavano, sti puffi? Puffavano, acidi erbolina, puffavano i puffi. Quindi puffare. Tanto lo sappiamo che una volta nella vita almeno l'avrete detto il verbo puffare. Io sono una grande ammiratrice dei puffi. Perché? Non ve lo posso dire. Ma l'ospite di oggi secondo voi sarà un fan dei puffi? Sì, io sono un grande fan dei puffi. Grande! Eccolo! Puffa con noi! Abbiamo Neolo... come ti chiamiamo stasera nella tua veste? Puff Neonan. Puff Neonan. Comodo. È un neologismo. Comodissimo. Tra l'altro. Neologismo. Cioè, voi non lo sapete, ma è già in un dizionario. Non so quale, perché ancora i miei, diciamo, scagnozzi non hanno letto tutti i dizionari usciti quest'anno, però è già, non mi ricordo già com'era la parola. Ma... Puff Neonan. Perché è già cambiata. Neoneologismo. Sì, neo. Straneo. Sta lingua va velocissima come i fulmini. E quindi che rispondere a Philip, no? Che chiedeva, ora faccio quello che sa, ma in realtà non so niente. E, sì, cioè, hanno molto fortuna questi nuovi neologismi composti da verbo e nome. Spesso il verbo è troncato e dopo c'è il nome, appunto, porta occhiali, porta puffi. Porta puffi è un neologismo che va molto tra i giovani di oggi. Beh. Bevo perché mi sa che è porta bicchiere, ma poi ci dirai porta aperitivo. Un porta aperitivo che è in regia il porta aperitivo, un porta spritz. Un porta spritz. Tra l'altro c'è sia il, diciamo, questa formazione, no? Verbo nome, che una parola straniera che viene comunque normalizzata in italiano, è diventata una parola italiana, ma in realtà spritz non mi sembra una parola italiana. Penso sia tedesco. Sì, austro-ungarica, o comunque sì. Secondo me è una parola detta male da chi ne ha bevuto tanti. Originariamente era spritze. Per troncamento è diventata spritz. Troncamento del palazzo. Del bello palatino. Avete già capito com'è il friccicore della serata, l'andazzo. Però perché il nostro ospite neologivan? Perché il nostro ospite? Allora, l'ospite è arrivato, diciamo, raccattato dalla piena, perché purtroppo, per fortuna, ha intenzione di laurearsi dopo anni. Essendo iscritto, fate un applauso da casa. Righerime così io. Da 6 anni. E niente, quindi quest'anno ha deciso di laurearsi e ha deciso di fare una tesi sul neologismo, ma non solo, cioè sui neologismi, con un capitolo conclusivo su una parola che è stata tanto in voga nel 2015. Mica, No, aprile 2016. È passato così poco tempo, sembra un'eternità. Purtroppo sì. E niente, quindi vabbè, ma questo poi, di questo ne parleremo dopo. Da quando hai iniziato a scrivere la tesi? Da 3 mesi, ho scritto 12 pagine. Devi fare veloce, perché se no non sono più nero. Volevo salutare Morgana, che è l'unico libro, cioè praticamente la scrittrice è l'unico libro che... Lo scrittore dell'unico libro che ho letto per la mia tesi. Grande. E di cui poi parlerò. Monobibliografia. Certo, per ora. Poi le altre 30-40 pagine ci sono altri, purtroppo altri libri. Bene. Io parto subito con un pezzetto. Stacchettino, niente male. Una volta li chiamavamo semplicemente gli utonti, quelli che al posto di essere utenti nel web spiccavano per incapacità. Da oggi invece li chiameremo webeti. Dicesi webete un ebete che sul web si diletta con commenti frustrati e con, diciamo, scarsa comprensione della realtà. Il merito è del direttore del TG di La 7, Enrico Mentana, che rispondendo ad un commento sul suo profilo Facebook ha dato cortesemente del webete a un commentatore, continuando però a dargli del lei. il neologismo è presto coniato e Twitter impazza. L'hashtag Webete diventa trend topic, una crasi facile da pronunciare ed efficace. Però tra l'altro è figa come cosa, eh? Cioè è un bel neologismo, sì. Perché comunque abbiamo qualcuno in collegamento, però forse aspetta. Stanno chiamando in regia. Stanno seguendo il film, perché vi dobbiamo dare conto subito con le immagini. Era Mentana, doveva darci conto di qualcosa con le immagini del Webete. Posso dire che Mentana l'ho visto 2 settimane fa che parlava con Nardella, bello felice, bello contento, a Palazzo Vecchio, durante la cerimonia di accoglienza, diciamo, del principe Carlo e della sua moglie. Oh, sì, che era elegantissimo. Sì, e c'era anche la Buona Amici. Pure, guarda. La Buona Amici, che praticamente stavamo tipo portando delle piante al Salone del 500 con un montacarichi, anch'esso neologismo legato. Montacarichi. E niente, è cascato un albero e la Buona Amici, cioè io ho detto piovono, che cos'erano? Mandarini, piovono mandarini. E la Buona Amici ha detto, ma come siete simpatici. Questo per dire, la Buona Amici non è simpatica. Per nulla. Come siete simpatici, sapessi. Eppure io invece avrei proprio pensato fossero simpaticissimi. Ma ti immagini che trio, la Buona Amici, Mentana e Nardella. La vita mi delude. Di cosa avranno parlato secondo voi? Dei neologismi. Sì, sicuramente. Vero. Io penso proprio di sì. Sì, d'altronde sì, ci sta. Glielo vogliamo dire a questi tre cosa sono i neologismi? Sì, dai. Glielo diciamo? Nina, partite, prego, vi prego, sono prego, tutta prego, orecchie prego. E cuffia. Allora, in Italia c'è un crescente interesse verso i neologismi. Avete sentito anche il servizietto di prima. Servizietto, oddio! il lancia servizi. Era un servizietto, quello era proprio. Dove tra l'altro parlavano di trend topic. Tra i neologismi, purtroppo è entrato anche quello che è un prestito, un forestilismo. Allora, che cos'è un neologismo? In principio. Era il neologismo. Era il neologismo. Poi, prima era il verbo, poi è diventato il neologismo, ovvero. Facciamo un'introduzione un po' con tutti i crismi della buona Pasqua appena passata, no? Allora, il neologismo deriva da un accostamento di due parole greche, neo e logos, che significa appunto parola nuova, però noi ce la siamo ritrovati nell'italiano grazie a un prestito del francese, quindi è un derivato, diciamo, la parola neologismo. E in genere il neologismo indica una parola, una locuzione nuova che non appartiene al corpo lessicale di una lingua e che, per esempio, arriva in una lingua per una derivazione, per una composizione eseguita, fatta, creata da parole già in uso. Modellismo, servo sterzo. Per esempio, questo era quello che ci dice la Treccani. E infatti dicevo, questo l'avete preso dalla Treccani. Esatto, questo l'abbiamo. Tanto Treccani, tanto di cappello. Sempre, comunque. Online è meglio. Citiamo le fonti. Io ho guardato, sinceramente, quello che diceva la Crusca sul neologismo. No, è molto sbrigativo. Madonna, 4 righe. Sì, ciao, questa è una parola nuova, buona. Vabbè, ma anche un sacco di cose da fare. Andare, per esempio, da Roberto al barettino, che io conosco. Grande. Dove vanno da Roberto a prendere il caffè. Professor Zerlato, Verlato, io la spio. Lo sappia. Io volevo salutare Sabatini, che tipo il mese scorso era la Crusca, l'ho incrociato. Così. No, Sabatini, sì, grande. The Real Sabatini, è più vecchio di mio nonno, scoperto. C'ho il poster in camera. Stava, tra l'altro, aveva tipo sotto braccio un libro sul dialetto veneto. Quindi non si sa che cosa starà tramando nel nome. Perché alla Crusca stanno facendo degli studi particolari sulla classificazione, se non sbaglio, del trevigiano. So tutto. Io li spio, ragazzi, non avete idea. Sì, qua qualcuno ci suggerisce lo spritz. Uno spritz, prego. Che è Veneto, tra l'altro. Veneto. No, lo spritz è triestino, non dite che è sì. È vero, Madonna santa. Sapeste come lo fanno poi. Niente, quindi questo è il neologismo, prima di Sabatini, prima del bar di Roberto e prima della Crusca. Oppure è vero, il neologismo può anche essere introdotto ad adattamenti di un'altra lingua, la parola informatica è nata prima in inglese con l'informatics e poi è stranamente derivata in francese con l'informatique, oppure addirittura la guerra lampo, che è una traduzione letterale del composto tedesco Blitzkrieg, che è una parola che non è un gruppo new wave, è una cosa vera. E poi vabbè, vedremo più avanti un po' di classificazioni, magari ce le dirà il nostro ospite, però si parla di prestiti o calchi linguistici. E quindi, vabbè, costituisce poi anche un neologismo, per esempio, il cambiamento, la trasposizione di significato di una parola già esistente in una lingua, e quindi si parla di una sorta di neologismo semantico. Non mi viene in mente neanche un esempio ora, però. Devo essere sincera, sono tipo il crigiatino sulla ruota. Allora, l'errore grammaticale sintattico piuttosto che... Ah, mamma, sì. Che okay, è la cosa più bla bla bla, che bla bla bla, è la cosa starcinota. Tanto è vero che quelli veri, quelli della Crusca, stavano, se non sbaglio, addirittura ipotizzando di passarlo per buono, come vero, hanno fatto, sì, con la Memì. Si può fare per anche con altre cose, sì. Sappiate che vi spio. Io vi spio. E un giorno entrerò. È inutile che vi bocciate con corse, un giorno io entrerò. Ma quelli freschi di studio che ci dicono? Che su, no, sta cercando il mutamento semantico, no? Mm-hmm. Perché nella mia tesi, perlomeno lì, c'è qualcosa. Ah, bello, bellissimo. Però non ho scritto neanche un esempio. E... cioè, ci devo pensare un attimo. Voi parlate, io ci penso e lo cerco. Abbiamo invitato un pensatore. Sì. E radio pensatore. Radio pensiero. Vanno, radio, sì. Tra l'altro radio è un... cioè, ci sono tante parole che hanno il suffisso radio e sono dei neologismi, tipo radiologia, no? Anch'essa era un neologismo e radio è uno di quei suffissi che può essere usato per due campi semantici differenti, cioè il radioamatore e la radiologia. Esatto, ah, okay, quindi la differenza del raggio della radio, sì, del mezzo, certo, dell'etere. La parola che deriva dal greco ha diversi significati, perché poi col tempo è diventata questo, è diventata quell'altro. Anche questo, no, questo è l'omero, però il radio, l'osso. Sì, sì, sì, sì. Oh, ragazzi, e qua mi fanno segno che da un'altra... Io mi stavo indicando. Ah, gesto dell'ombrello. Questa cosa mi è venuta in mente ora, prima dicevi di mutamento semantico. Anche se non è di una parola, ma è di più parole attaccate, tipo la parola camicie nere, se io ti dico camicie nere, te ti vengono in mente i fascisti. Esatto. Mentre però la camicia nera è anche la camicia nera, quindi il mutamento semantico, questo è un esempio di mutamento semantico. Ok. E tra l'altro una cosa importante, cioè penso, poi non lo so, ancora la professoressa mi deve rivedere la tesi, quindi non lo so, e con il termine neologismo si può parlare anche di una frase o comunque di un gruppo di parole che non sono una parola sola, ma che messe insieme hanno un significato diverso dalle parole scisse, no? Mm-hmm. Tipo calcio d'angolo, ad esempio, no? È un neologismo che deriva dall'ambito calcistico, perché se io ti dico a te calcio d'angolo, e non esiste, cioè immaginati, no? Nel 1900 io ti dicevo calcio d'angolo. Te che cosa, cioè, dicevi? Oh, boh, signore. Un calcio a un angolo. Spero non le duola il piede. Ecco, sì, non le dolga il piede. Non le duola. Non le suona. Non le brr il piede. Mentre grazie all'adattamento dall'inglese corner kick, calcio d'angolo è diventato un neologismo. Qui ora sembro uno che sa le cose, ma in realtà... No, le sa, è uno di quelli che dice che non ha studiato, poi invece vero, alla fine... Allora io faccio scattare subito la domanda, no? Il mio grande crucio di questi ultimi anni, ma secondo voi allora nel tentativo di trasformare il verbo da transitivo in transitivo e viceversa, cioè nello scioperiamo la città, c'è questa aspirazione oppure è semplicemente un gesto naif di... attirare l'attenzione, fare una sorta di tramonto di... Per me è quasi pubblicitario. Cioè, non c'è invece l'obiettivo di creare qualcosa di... Boh, nel senso, così su due piedi mi viene in mente il fatto che comunque lo slogan scioperiamo la città è forte e quindi c'è quasi l'intenzione... non lo so. Cioè, quindi questa intenzione un po' sotto sotto sì, c'è in realtà sì, di, sì, farlo, c'è. Di trasformarlo, di farlo diventare qualcosa d'altro. Se, ma secondo me Scioperiamo la città è nato da mille pensieri su mille cose, un po' di sostanze anche. Beh, perché, quello, no, quello a prescindere, sicuramente no, per arrivare quello non c'è dubbio, io parlo solo dello slogan. Cioè ah, ok, del, quello ovviamente, no, secondo lo me è... per scontato. Ovviamente. Secondo me non è voluto, non è voluta l'intenzione di distruggere questa forza, boh, non lo so, questa cosa tra non lo so. Romanticamente speravo ci fosse proprio un tentativo di farlo diventare il neologismo del movimento, boh, dei movimenti X, o comunque che ci fosse sotto uno studio di questo tipo. Può essere che ci abbiano provato, ma dal momento che è uno slogan, se si chiama così è perché viene pensato a tavolino, che poi sia pubblicitario, quindi destinato alla vendita, ci sta, ma in questo caso comunque era destinato a fare proselitismo, perlomeno tirare su un po' gli animi e accomunare e spronare, quindi ci sta che abbia un intento. Chissà, poi sarà il tempo a darci la risposta. Funzionasse la wifi, io ci guarderei, ma... Qualcuno non ha pagato la bolletta. Radio Wombat. Il signor Wombat. Ci cerca. Beh, allora io vi faccio sentire un pezzo che fa un po' schifo. Fa veramente cacare. Si può, sì. Ma giusto un pezzettino, ci mi sta, dai. Così. Ci sta, ci sta. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire. Ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare. E mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore e non ho più pensato a tutte queste cose. L'abbiamo mozzata così perché non si può sentire. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo tutto. Ma. Il compaesano di mia sorella, lui. Cioè mia sorella abita tipo 5 chilometri da Zocca. Pensa. Pensa di trasferirsi subito a Firenze Zocca, Sud. Anche cantautore è un neologismo. È vero, è perfetto. Vedi. Ma possiamo anche tipo vascorossizzare, possiamo inventarci. Sì. Però deve essere l'accezione deve essere molto negativa. Nel senso, i Vasco rossizzato con questo guarda disegno. Che schifo, questo cappellino verde. Sì, cioè, magari anche con la musa, Vasco rossizzato questa canzone. Cioè, significa che forse si può dire, cioè, nell'immaginario collettivo è quando fai sì. Ci può stare. Anche ligabuizzato, Sì. Quindi... Tanta da una roba. Parte dall'altra. Grandi contenuti sulla sempre. Su Radio Wombat. Dai, Blasco. Allora, ma in Italia gliene fregherà qualcosa a qualcuno dei neologismi, visto che il nostro ospitino ci fa la tesi, noi ne parliamo. Forse a qualcuno interesserà. Qualcuno interessa. Allora, ma soprattutto io mi chiedo, perché hai avuto questa idea folle? Ma non lo so, perché alla fine... Volevo fare qualcosa che un minimo mi interessasse e non sapendo dove andare a battere il capo, come si dice in fiorentino, mi sono interessato a questa cosa dei neologismi e soprattutto di Petaloso Boh, volevo fare una cosa che avesse un minimo di interesse negli interessi che ho io in generale. Comunque, anche se ne so poco, mi interesso mi interesso a sapere. Cioè, mi piace, insomma, parlare di queste cose. Di parlare di linguistica e non solo. A me piacciono molto i dialetti. Infatti, volevo fare una cosa sui dialetti, ma non sapevo dove andare a battere. Non sapevo dove cosa fare. Ma perché non vieni più spesso? No, infatti. Ma a me vengo a farvi tutti i dialetti che volete. Sì. Allora, sono capace. Ti devi leggere il libro di Barbaro, quello di filologia romanza. Sì. Aia. Arridaie con questo libro. Sto leggendo un libro di Italia e faccio tre pagine a sera. E comunque i termini sono belli, sono mie, è tutto fighissimo, però. Vabbè, comunque ci proverò. Però se volete torno in futuro a parlarvi, a parlare un po' di dialetti. Giura in diretta. Giura sull'isoglossa. Sull'isoglossa la Spezia Rimini, sì, ecco. Ti giuro tutto quello che vuoi sull'isoglossa la Spezia Rimini. Però io sono un amante delle lingue romanze meridionali, no, come orientali, cioè tipo sotto l'isoglossa e il rumeno. Cioè il francese, il nord Italia, il francese e lo spagnolo non mi stanno tanto simpatiche. Mi stanno simpatiche quelle dove c'ha le vocali. Lupul. Quelle Arbul. Sì, quelle. Ah. Comunque, parliamo di neologismi, dai. Mi state tagliando un po' fuori, comunque. No, lo dico. Ma anche la tua, guarda, è la tua. È parte del dialetto meridionale. Poi è sardo, è fuori da qualsiasi isoglossa, fuori da qualsiasi. Sardo è sardo. Cioè, sì, no, è vero. Cioè, però. Penso si possa accomunare di più a quelle meridionali. Sì. Penso, poi non lo so, non me lo ricordo sinceramente. Io non so perché ho in mente una cartina dove il sardo era accomunato tipo a qualcosa di provenzale. Sì, c'è anche del provenzale, ma poco. Ma perché poi se uno guarda la cartina linguistica della Sardegna cosa trova? Tipo il mondo intero. La qualunque, vedrai. Ah, vabbè, ma non cambiamo discorso, scusate. No, è che i dialetti anche secondo me sono un tema più bello. Da fare, metto. Lo rifacciamo. Infatti, madonna, accidenti a me, ora non dire, tanto c'ho tempo per scrivere la tesi famosa su dialetti. Scusa, guarda, ma davvero, vi voglio bene. Vuoi dire? Cioè, mi sento veramente, guarda, forse realizzato. Vuoi dire quando ti laurei? Chi lo sa? Non lo so. Quando riuscirò a avere la voglia di continuare ad andare avanti. Parliamo di neologismi. Spremiamolo. Sì, un saluto a Cesare Buonamici, speriamo che si ricordi del nostro ospite. Del mandarinaro. Sì. Allora, però in Italia, dicevamo prima, che non è che... Cioè, il neologismo addirittura non soltanto è amato, è osservato. Perché poi facciamo errori di ogni tipo, linguistici, ortografici, quello che vi pare. Però abbiamo addirittura un osservatorio sui neologismi che non ha niente a che vedere con altri, diciamo, istituti linguistici. È una cosa a parte. Hanno un sito e rispondono all'acronimo di ONLY. Io sulla scaletta ho scritto ONLY YOU. Non lo sapevo, tra l'altro. No, guardalo, perché lì ci trovi il mondo. E praticamente giustificano il loro amore verso le nuove composizioni linguistiche dicendo questa cosa, che l'interesse crescente per lo studio dei neologismi... Ma di la verità, tu sei venuto qua perché così hai gli spunti per la tesi. Sì, in realtà sì, perché sono fermo da un mese, non so che fare, non so che libri leggere. Cioè, lo so che libri leggere, ma non so come argomentare, quindi vai, continua. Se mi dai 150 euro te la scrivo io la tesi. Sì, ci si può pensare. Comunque sei metà delle tasse universitarie che pago in un anno, quindi... Vedi, ci potresti fare l'affare. Allora, gli affari su Radio Wombat. Stay affari, stay Wombat. Stay affari. Stay business. Stay affari. Business di mandarangi, un business. Allora, l'interesse crescente per lo studio dei neologismi, dicono questi signori dell'osservatorio sui neologismi, che si è andato manifestando a partire dalla seconda metà del XX secolo, si deve principalmente a due concause. Qua si parla però veramente dei tempi di mio nonno. La velocità del progresso scientifico e tecnologico, che comporta la ricerca continua di nuove denominazioni, vabbè, è vero, e il progressivo superamento degli ostacoli che in precedenza si frapponevano alle diverse forme di comunicazione internazionale, cioè le lingue straniere in primis. Così si sono andate sviluppando nuove modalità di comunicazione grazie ai recenti progressi nel settore delle telecomunicazioni e in particolare alla capillare diffusione della rete telematica. In Italia e all'estero è fiorita un'articolata produzione di raccolte e repertori neologici e una crescente attenzione, testimoniata da una serie di contributi e saggi anche di grande rilievo scientifico. Qua ne citano uno, la cui prima edizione risale al 1905, che è il Dizionario Moderno di Alfredo Panzini, rivisitato e arricchito dalle riflessioni e dall'esperienza lessicografica del Migliorini, che è uno dei più grandi esperti di lessico e lessicologia in Italia. E quindi, se andate un po' a leggervi l'Osservatorio sui neologismi e tutti gli articoli che hanno fatto, le pubblicazioni, insomma, troverete un sacco di spunti, in realtà anche di cose divertenti. Cioè, se siete malati come noi tre, vi divertirete un monte. Cioè, non sono mai andato, mi sa che andrò. No, lì ci fai la tesi con quello. Sì? Secondo me ti ci diverti anche. No, ma infatti, perché sono curioso anche di vedere poi cosa è diventato davvero, ma loro scrivono neologismi perché, allora, bisogna secondo me dire una cosa importante, no? Che neologismo può essere qualsiasi cosa, nel senso, io domani mi sveglio, invento una parola, te lo dici e piace. Può essere un neologismo, però da quello che ho letto, eccetera, i linguisti accettano il neologismo quando esso è scritto su un dizionario. Quando esso entra, cioè è scritto su un dizionario, è la parte successiva, scusate, quando esso entra a far parte del linguaggio di un gruppo di persone. Nel senso, la parola telematico sarà stato il primo giornale che ha scritto è nato il connessione telematica, e da lì è diventato quindi un neologismo. E loro su cosa si basano per dire che questo è un neologismo, no? Cioè, perché anche petaloso, che è una cosa che comunque parliamone ora uguale, è una parola che, volente o nolente, è un neologismo, perché anche se te non lo accetti come neologismo, perché dici sì, però in questa maniera poi se un bambino si inventa una parola, quindi essa diventa un neologismo, te hai parlato di neologismo, cioè hai parlato di petaloso, quindi è già un neologismo e quindi è già una parola. È già in funzione, socialmente. Cioè se io vado a parlare con mia nonna, magari no, ma con mio zio che ha la terza elementare, a cui voglio un bene nell'anima e gli dico petaloso, lui mi dice, lo sa cos'è, certo, perché l'ha visto in televisione. Quindi tutto quello che noi, le parole che diventano neologismo passano, come dicevi appunto di prima, attraverso i mass media, la televisione, i giornali, internet e tutto. Quindi vorrei sapere questi mitici dell'Only You da cosa ricavano le loro informazioni. Vanno in giro a parlare con la gente? No, secondo me loro hanno un monitoraggio attivo, secondo me in realtà sono legati alla Crusca. Sulle scritture o comunque su quello che compare. Monitorano, te lo dicono poi. Sulla produzione scritta probabilmente, perché sai, sulla produzione orale è un po' più difficile. Un vero riscontro. Sì. Oppure sì, monitorano tipo in maniera fissa social network e cose del genere, perché poi lì è il momento e il luogo in cui si passa dalla lingua orale a quella scritta, nel senso tutto quello che viene buttato lì. Sì, per la prima volta, storicamente, proprio nella storia delle lingue, per la prima volta. Sì, nel bene o nel male, però è la prima volta che accade, quindi è anche più semplice riscontrare anche le variazioni immediate. Operazioni diafasiche, diametriche, diastatiche. Aiuto. Beh, io direi che ci possiamo rinfrescare un attimo. Sì. Così poi dopo il nostro ospite parla. Allora vi do un pezzettino di quello che ci ha annunciato. Sì. Da cominciare da principio come la PC sulla traccia, è guaglione che caccia le rime, nome dei dandy. Ti lascia lì sopra il beat, suona sangue mistico, il ritmo è magico, la vibra che ti do è vera dopo, e quindi va da sé che come suona, che non ce n'è. La di là e la di là è difficile dentro la faccenda, e sangue misto rappresenta su vinile pure live nella jam in freestyle. Dip dip net e dandy, tipi di graffa e DJ, ed è un talk che i guaglioni se ne vanno in giro. Ci vediamo domani, niente viaggi strani, stai sicuro, stessa musta, stessa porta, stesso trip. Quando caccio la mia rima sopra il beat, tipo tu capisci. Perché è internazionale, ma chi è fuori resta fuori senza la parola chiave. E muoio, sentermoi, lo go per di. Viste che da lusa mente sangue misto stai lì. E posso puntare all'ongia con un passo a cashti. Sangue lo resmo pensa del pozzano a carica qui. E pensa quando ci siamo noi, non ne mi fermiamo più. Mena gami, e se tu me vuoi, tu leggo il popolo della seconda. E pensa quando dici, quanto cazzai e quanto cazzenti. Calore, aspetto che tegno, non lo davo a tutti quanti. E viene su dal sottosuolo, in volo, i miei guaglioni fanno il coro. Caccio solo al coro e cico con le pezze al culo. Perché i tempi sono duri, cani sciolti e i musi sporchi. E sotto c'è rovina, quindi è meglio stare accorti. Se la dopa è mista T con HC, senti dei dambi. Dedico questa gemma a tutta la mia family, ai guaglioni che mi han tirato su quando avevo 16 anni o poco più. E adesso caccio rime nuove di zecca sulla traccia regolare che ti spacca. Vuoi controllare? A check check a 1-2 quando sono in onda fisso che è una storia bella. La vista è pronta perché con sangue misto la ballotta dei guaglioni. I soci nel THC facciamo su con il volume a 100. La dopa piglia bene, sangue misto nelle vene. Lascio fare come non hai fatto mai. E soprattutto state zitto, ci non sai. Il tipo che ha confuso la dopa l'ha deluso. Se non la senti dentro, se ne sconsiglia l'uso. Conosci la ricetta e cico a conti fatti. Basta il microfono come strumenti piatti. E quindi se gradisci percepisci il funk con la parola chiave. Sangue senti lo muoio, lo gofra. Un milione di stofagna, c'ho brucia. Lo ritmo quando te zica. Tutto qui tu cadegna, capo io lo tiro fuori. Gna c'ho brucia. Sangue misto con lo gofra. Con tutto lo cuore in palla, sto per sire. Piace non si capace, non è nulla fare. Scino che la capa lo cuore, non te li puoi inventare. Ci dici questa musica, nulla puoi dilassare. Per cui sangue misto con lo gofra, moia. E se sta brucia, sta brucia, e brucia bene così. E dopo con sangue misto e raga con Goffer D. Nella jam con i guaglioni caccio fuoco. Perché resta la mia zona e perché resta il mio gioco, cico. E solo i pop e piglia bene un to. Caccio rime su rime su rime dai giorni di stop, stop, stop. Il tempo vola, 100% a 100, niente in dolce. Quindi vada come vada, dopo cico passa parola. Perché è andata come è andata fino a qui. Sulla traccia, F DJ Graf con dei dambini. Quando fuori piove sotto il sole, sangue misto sale. Con la parola chiave lo esposina e brucia quando ci siamo noi. Non è non fermiamo, chiude me la cammina. Senti una vuoto, perché il popa te la lontano. Brucia quando dici, questo casaglia, questo da senti. Calore, spento, cadeno, in tu non lo davo a tutti. Quando lo gofra in questa casa, muoi. Se senti muoi, lo vede in questa casa, muoi. Cammina con l'unetto in questa casa, muoi. Ti t'affloga in questa casa, muoi. Sponsor della trasmissione le patatine Fidel. Qui si sgranocchia. Che come facciamo? Lasciamo patatosa questa. Io voglio, sì, voglio una serata patatosa e pesalosa. Però patatosa. La sardissima, via. Patatosa. Patatosa secondo me anche patatosa può essere. Ora gli mando una mail. All'Accademia della Rusca dicendo siate ma mandala a noi. Patatose, cruscose e patatose. Mamma mia. Il cruscoso mi viene in mente solo una roba. E non la diciamo perché siamo dei signori. Bravissima. Signorissimi. Signori e signori e signore. Ecco, ecco. Sono dei signor... Senza signorine. Infatti, no, che non no, si no, usa no. più. No, no, non... infatti signorine non si usa più, perché? Non si può più. perché signorina era un po' l'etichetta della donna zitella che non si era sposata mai, e quindi o faceva da fanciulla a signora, e se invece non si sposava da fanciulla a signorina. Perché comunque era intrinseco nell'essere donna e doversi sposare. È chiaro, certo. E il diminutivo Ina, se no la signorina. Perché sennò non raggiungevi lo status, certo, sociale. Comunque non eri mai al top. Ma perché quelle divorziate non si chiamano signorone? Divorziate e risposate. O signoracce. Signorone. Però c'è un termine molto simile, può essere MILF. Oh. questo è un neologismo, è un prestito. Sì. Cioè, è un neologismo ma un acronimo. È un neologismo acronimo. Ma gli acronimi sono spesso, cioè anche alcuni acronimi sono dei neologismi, tipo, ce l'ho scritto qui, cercare. Ci metterò un anno. Poi bellissimo, benzina, benzinaio, la normalizzazione quando un verbo e un aggettivo si spostano nella classe del verbo, così leggo a caso, non so dove battere la testa. No, comunque prima parlavamo di petaloso e io, siccome devo abbandonare la trasmissione per quella cosa brutta che inizia per la L, che voi sapete benissimo cos'è, cioè il lavoro, e licantropo. La luna. Io ho pensato a Livorno, ma non è una cosa brutta, anzi è bellissima, per cui non tornava. L'insalata. Sì, anche. Neologismo direbbero i grossetani che fanno il raddoppiamento fonosintattico della L. Grande. Nell'articolo. Vabbè, comunque, niente, parlavamo di petaloso, no? Di come petaloso sia stato tanto discusso nei giornali e non. Cioè, immaginatevi tipo la questione petalosa, di petaloso, come questa professoressa iscrive all'Accademia della Crusca e la lettera, no, che viene scritta da questa professoressa non viene mai pubblicata da nessun giornale, perché poi, se non mi ricordo male, è andata più o meno così. Cioè, la lettera l'ha mandata alla Crusca, l'ha mandata a un giornale, questo giornale l'ha pubblicata e da lì è nato l'interesse. Quante parole nuove inventiamo tutti i giorni e quante esse diventano neologismi? Molto poche, perché sono tutte legate alla diffusione che esse hanno tramite mass media, come si diceva prima. È giusto che petaloso sia un neologismo? Non lo so, cioè, non saprei dire se è giusto o no. So però che essendo essa una parola molto discussa, purtroppo o per fortuna è diventata una parola nuova, quindi mi immagino che nei prossimi dizionari o vocabolari dell'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, essa verrà messa sotto la... Ma penso perché sia già comparsa. È già comparsa, non lo so perché ancora non sono arrivato a quel capitolo della tesi. Se non sbaglio sì, non sono sicurissima, quindi potrei dire una stupidaggine, però penso sia già stata inserita, se non altro, nella lista delle prossimissime parole che entreranno a far parte di... E voi cosa ne pensate di petaloso? Allora, io do per scontato che una lingua viva si deve per forza riempire di neologismi e rinnovare di tutto. Non condivido che la lanciata sia fatta dalla maestra che, per finire sul giornale, faccia fare, non so, la grande pubblicità all'istituto, ma quello per altre ragioni legate alla scuola, quindi sono... Una questione mia, per che rido, scusate. Non lo so, è arrivata notte, ti ha sgranato gli occhi sul petaloso. No, nel senso, la parola mi sta, cioè ci sta, perché ci sta che una lingua si rinnovi, ok? Non mi piace il fatto che lo faccia la maestra e pubblicizzi il disegno piuttosto che la frase di un bambino, questo no. Però a prescindere dal come è nata, sì, sono d'accordo che ci debbano essere, anche perché effettivamente è una parola interessante, a parte tutto, però perché è nata da un bambino, il bambino è linguisticamente interessato e quindi ci sta. Principalmente le parole, no? Le nuove neologismi nascono per 3 motivi, no? Che sono il fatto che nasce un oggetto nuovo, quindi devi dare un nome all'oggetto nuovo, il fatto che nasce un concetto nuovo, quindi devi dare un nome a un concetto nuovo, e poi basta, cioè il concetto di una cosa piena di petali esiste, cioè puoi usare una parafrasi per dire perché, ciò. Ecco, perché magari la lingua a volte ha una mancanza, perché per quanto la lingua italiana sia ricchissima come così tante altre lingue, però comunque è chiaro che ci possono essere delle mancanze dettate o no dal momento storico, dalla tecnologia o meno, però è vero, ci possono essere delle mancanze che una lingua porta con sé e in un determinato momento si dice perché non colmare questa mancanza con un neologismo. Appunto, però c'è poi bisogna stabilire quando... Il limite, forse. Sì, sì, cioè perché anche perché questa parola è una parola, no? Che non esprime un concetto nuovo, perché il concetto di un fiore pieno di petali, sì, cioè... C'è la margherita. Da sempre, da quando da prima esiste l'uomo forse, quindi da prima esiste la parola anche. E l'oggetto nuovo non c'è, quindi dicevo, no? Prima erano tre i modi, no, in cui una parola diventa una parola nuova, entra a far parte del vocabolario, è da forma dotta, cioè nel senso uno scrittore si inventa una parola nuova, è bella stilisticamente ed essa diventa una parola nuova, no? È successo per tanti termini, è successo anche anche nel cinema, cioè ormai il cinema fa parte della cultura e quindi anch'esso no, la parola nuova viene detta in un film, viene sentita da un monte di persone, milioni di persone, quindi diventa una parola nuova. Questa volta è stata fatta da un bambino. Cercava un modo sbrigativo, no? Per usare un'espressione, ed è diventata questo. È usato appunto petaloso. È un neologismo? Una scorciatoia? Una scorciatoia, sì. Sì. Dal punto di vista della formazione della parola mi sembra che ci sia tutto, cioè nel senso ha coniato un qualche cosa che perlomeno è stato abbinato, accoppiato con un sistema appunto che forma una parola, corretto, perché ci ha messo il suffisso oso che è tipico degli aggettivi, per cui... Sì. Oddio, tipico degli aggettivi che formano i bambini, il morbidoso. Sì, cioè è un aggettivo, ma è anche... Petalato sarebbe stato un'altra cosa. Sì, cioè anche come potrei dire, più amorevole, non lo so, più... Io non sono molto pro petaloso, nel senso, è come la mamma che va dal pediatra con tutte le altre mamme intorno, dice: il mio bimbo ha fatto una cacca bellissima, ma anche tutti gli altri bambini fanno la cacca, per cui non sì, è sì, no, infatti è quello un po' il senso di come diventa poi un neologismo, però è vero anche che questi neologismi devono diventare tali, devono comparire nella vita e non devono essere necessariamente tirati fuori dal web o dalle... Anzi, è uno dei pochi lato positivo. Forse l'unico neologismo che non viene dall'ambito della comunicazione in sé per sé, cioè si è sviluppato grazie al mass media, perché appunto se non la lettera non veniva pubblicata nessuno lo sapeva. Sì, però è una conseguenza, cioè è arrivata dopo la lettera, prima c'è stata una vera produzione spontanea, infatti, più spontaneo rispetto alle altre cose. Infatti sì. Meno male, cioè, è inevitabile il fatto che ogni parola e qualsiasi cosa, se arriva a tutti, arriva grazie alla comunicazione di massa, perché sì, purtroppo sì, viviamo in questa società è fatta così, volente o nolente. Piuttosto che sentirmi dire debriffare, potresti briffarmi su quello che è successo oggi, con un calcio, con uno schiaffo, come vuoi essere briffato? Calcioso. Quindi queste sono quelle che poi De Mauro, tra l'altro, mi era... Grande la scaletta Tullio. Ora sono le neosemie. Sì. Ma che bravi. Ne sappiamo. Questa è una neosemia. Siete veramente bravissimi. Sì. Vabbè, ora che siamo qui a crocelarci nei nostri, no? Proprio, cioè, voi non ci potete vedere, ma stiamo tipo alzando le spalle. L'autopat. Facciamoci così. Pat. Sentite tutti questi pat. Io vi saluto, vado a fare quella cosa brutta che inizia per la L. Ciao, buona l'insalata. La cacca bella. C'è anche la doppia. La cacca bella. Grande, grazie mille per il tuo ciao grande, tutti. Preziosissimo. E buona tesi quando sarà ora. Sappi che hai un'offerta. Dai. Si potrebbe parlare proprio... Se ne potrebbero dire di cotte e di crude, cari miei. Cavi. Beh, che dire, delle tipologie di neologismi ne abbiamo parlato prima, perché i forestierismi, gli occasionalismi, queste cose qua. Quindi io direi che possiamo tranquillamente passare c'è a... tutto, passiamo a, signore e signori, la... l'agendina della settimanina. Allora, domani vedo una cosa bellissima da fare. Allora, se non sapete come trascorrere il vostro venerdì uggioso, non è uggioso. Ancora generalmente il venerdì è un po' uggioso, no? Perché dice che faccio, allora c'è al... Uiuiui è il suono dell'uggioso. Sì, gli onomatopee ci toccano prima o poi. Venerdì 21 aprile, leggo qua, Franti, White Room e Karakuri. Ragazzi, ma un concerto delle Madonne questo. Ma i Franti? Dove lo vediamo? Lo vediamo al Next Emerson. Con una locandina niente male, vedo. E qui ci si, proprio ci si sdà. Guarda, che bella. Un teschio, un gatto. Con un gattino nero. Sì, bella, mi piace, ma approvo. E quindi abbiamo questo super concerto venerdì al Next Emerson in via di Bellagio, bla bla bla, verso Sesto Fiorentino, venerdì 21 aprile. Ma guarda, sì, ora vedevo questo sito buffo, ci sono dei video divertenti, li vidi una volta. Vabbè, questo è quanto. Questo poi che cosa abbiamo? Sappiamo altro, a me mi è arrivata questa segnalazione. Fatemi ma sicuramente nella super agenda, quella scritta a mano con calligrafia, non c'è scritto altro, ciò significa che questo è l'unico evento a cui dovete partecipare. Per il resto potete andare tranquillamente al lago di Milancino. Amici radiofonici, conoscete qualche altro super evento del fine settimana per noi giovani che vogliamo sdarci nelle missioni musicali o che? Stasera allo spazio... Kulanka, non mi ricordo le cuffie, non, però al vecchio Kulanka ci sono gli Emerson Setter, guarda, e che mettono? Abbiamo qui la comunicazione in diretta. Mettono soul e vari, così leggo nei labiali altrui. Soul e funky, scusate, vengono male. Sole e fango. Quindi stasera allo spazio Kulanka, che mi dicono ora si chiama lo spazio YAM con la Y, via Luca Giordano, il vecchio ospedale alle cure? Pediatrico delle cure. Alle cure. Esatto, quindi dalle cure, da subito, uno di questi orari giovanissimi, già da ora sono già in via di puntare le puntine sui vinili, pensa. Domani abbiamo detto questo Next Emerson e basta, dopodiché solo riposo. Io sono in silenzio stampa, basta. C'è chi è in silenzio stampa, io non annuncio il pezzo della serata, perché se quell'ultimo che abbiamo messo era serio, questo è il pezzo della serata, non mi dilungo perché che vuoi dire, niente, so capolavoro belli, sociale, so belli. Sono belli, sono bravi. Sono favolosi e basta. E sono amici. Sono amici, chiaramente. Vi lasciamo così, con un bel pezzo, stranamente, visto che la brusca ha visto un attimino... Scazza, spezzo. Non si dicono le parolacce. Ecco, vedi? Accettato. Ah, bene. E un saluto anche... Facciamo un salutino a Luca Giurato. A prafuoco. A giovedì prossimo. A prafuoco. Ciao. La parola esibita mi rende nudo e confuso. Si libera per il desiderio di essere espressa. Per una combustione spontanea, dettata dal bisogno di esprimersi. Trattenila anche solo per un attimo e gettala via il più lontano possibile. Che resti solo una vaga interpretazione di ciò che è stato raccontato. Io non ho mai parole abbastanza, mai abbastanza parole. Io ho solo parole deludenti, ho solo parole che mi deludono. E sempre mi mancano.